Storie italiane. Gerlaug e Grettari. Molto tempo fa viveva un re con la sua regina e il giovane principe in un regno felice. Non avevano problemi di nessun tipo, ma tutto ciò cambiò quando in una notte buia un drago attaccò improvvisamente il palazzo e rapì il giovane principe. Il drago volò a lungo e per andare nel suo mondo infernale fu intercettato dal comandante militare del Regno delle Montagne. Il drago volò via per salvarsi la vita, lasciando dietro di sé il giovane principe. Il bambino fu portato dal Re delle Montagne. Chi sei, giovane ragazzo? Da dove vieni? Da molto lontano. Sono Grettari. Mio padre è il re di Goland. Ah, quel regno è davvero molto lontano. Gli invieremo un messaggio per fargli sapere che sei al sicuro qui. Fino ad allora rimarrai qui con noi. Grazie, Altezza. Il re delle montagne inviò un certo numero di messaggi al re di Goland. Ma ogni volta il drago li intercettava con la sua magia. Quando, dopo 10 messaggi, non si udì alcuna risposta dal re di Goland, il re delle montagne decise di adottare il giovane principe come suo figlio. Questa è una splendida idea, Sire! Il principe è un bravo ragazzo e sarà un buon futuro re per la nostra terra! Il comandante aveva una figlia di nome Gerlaug. Era una ragazza giovane e saggia, che conosceva un po' di magia. Lei e il principe Grettari diventarono grandi amici e con il tempo si innamorarono profondamente. Gerlaug, non dovremmo dire ai nostri genitori che dobbiamo fidanzarci? Pensaci bene, Grettari. Sei un principe e devi sposare una principessa. Lo sai? Non credo a questo, e nemmeno mio padre. Sei l'unica regina del mio cuore, e non sposerò nessun'altra. Il re delle montagne e il suo comandante militare erano estremamente contenti dell'unione e progettarono il fidanzamento di Grettari e di Gerlaug. Ma la vita aveva altri piani. Il drago lanciò un incantesimo sulla terra e rapì Gerlaug e Grettari. Finalmente sei nelle mie mani, principe Grettari. Cosa vuoi da me? Avevo bisogno del figlio di un re, nato nella notte di luna piena del mese del drago, per sacrificarlo al fuoco, così da poter divenire invincibile in tutto il mondo. Tu sei quel principe e ora ti sacrificherò nel fuoco e diventerò il drago più potente che ci sia mai stato. Liberami, uccello troppo cresciuto, e guarda cosa faccio con la tua spada. Oh, veramente? Bene. Combatti. Grettari, non durerai a lungo in battaglia. Ti sconfiggerà con la magia. Sul tavolo c'è una scatola di ceneri. Portamela mentre combatti e poi taglia le mie corde e stammi vicino. Io farò il resto. Quindi, come gli aveva detto Gerlaug, Grettari portò la scatola di ceneri e rimase vicino. Il drago usò il suo potere e proprio mentre stava per colpire Grettari con la magia, Gerlaug sparse la cenere su se stessa e su Grettari. La magia del drago scomparve e loro si ritrovarono in un oceano. Sia Grettari che Gerlaug si trasformarono in balene. Le balene colpirono a lungo e duramente il drago, finché il drago non riuscì più a muoversi e il combattimento finì. Gretari e Gerlaug nuotarono fuori, stanchi ed esausti, riacquistarono le loro forme. Che cosa è accaduto? Ai draghi non piace l'acqua. Trascinarlo in un oceano era l'unico modo per sconfiggerlo. Ma dove andremo da qui? Dov'è il nostro regno? Il nostro regno è dall'altra parte del mondo. L'unico posto in cui possiamo andare da qui è Golland, il regno di tuo padre. Veramente? Quanto è lontano? Posso portarti lì in un attimo, ma devi promettermi una cosa. Qualunque cosa tu dica, Girlau. Qualunque cosa accada, non dovrai fermarti a bere acqua. Se lo farai, una grande sventura ci colpirà. E tieni questo con te, poiché queste ceneri hanno un lato malvagio. Non lasciarlo mai, mai. Se lo fai, ti dimenticherai di me fino a quando la tua futura sposa lo butterà via. Non capisco. Qualunque cosa accada, non dovrò fermarmi a bere acqua. Se lo farò, ci sarà una grande sventura. Non dovrò mai perdere questo, mai. Se lo farò, ti dimenticherò fino a quando la mia futura sposa lo butterà via? Quale sposa, Gerlau? E come potrei dimenticarti? Sposerò te e soltanto te. Questi sono gli strani giochi della magia, Gretari. Fai come ti dico, per favore. Certamente. Farò esattamente come desideri. Non ci vorrà molto. Ti aspetterò qui. Quindi Gerlaug strofinò ancora un po' di cenere su Gretari, che immediatamente si ritrovò davanti alle porte del palazzo del re di Golland. Il palazzo è proprio qui. Arriverò lì in un istante. In effetti, il cancello del palazzo sembrava abbastanza vicino. Ma non importava quanto duramente camminasse Gretari, non riusciva proprio a raggiungere il cancello. Gli sembrò di aver camminato per ore, come se avesse camminato per miglia intere, ma non riusciva proprio ad arrivare alle porte. Il sole era caldo e il principe Gretari stava diventando molto stanco e assetato. Divenne così assetato che si dimenticò tutto della sua promessa a Gerlaug e nel momento in cui udì il rumore dell'acqua, corse verso di essa. Ah, senza quell'acqua sarei morto! Sei tu, figlio? Padre, sì, sono io! Oh, mio caro figlio, ci sei mancato così tanto! Anche tu mi sei mancata, mamma! Sei tornato! Vieni nel palazzo e lascia che tutti gioiscano perché nostro figlio, il principe di Golan, è tornato! Tutti gioirono nel regno. Dato che Gretari aveva fatto ciò che Gerlaug gli aveva detto di non fare assolutamente, bere acqua e perdere il suo ciondolo, Gretari aveva perso ogni ricordo di lei e delle montagne. Gerlaug lo aspettò per giorni, ma non vedendolo arrivare, capì cosa fosse successo. Il mio amato principe mi ha dimenticata. Oh, madre dei venti, cosa devo fare? La vita è strana e fa i suoi giochi. Alcuni buoni, altri cattivi. Ma non c'è da disperarsi, perché c'è sempre un cambiamento. Sentendo la voce della natura, Gerlaug sparse un po' delle ceneri su se stessa e raggiunse il ruscello da cui il principe Gretari aveva bevuto l'acqua. Lì trovò il suo ciondolo e lo prese. Quindi andò nel regno. Iniziò a cercare lavoro. Sono qui alla ricerca di un lavoro. C'è qualcosa in cui potrei aiutarti? Ah, sì. Sembri essere giovane e brillante. Abbiamo bisogno di qualcuno come te che si occupi del fienile e delle stalle. Potresti farlo se non ti dispiace. Oh, sì. Fammi vedere cosa devo fare e lo farò come dici. Te lo assicuro. Molto bene. Forza, vieni. La figlia del guardiaboschi mostrò a Gerlaug cosa doveva essere fatto e presto Gerlaug fu così abile nel fare il suo lavoro che la famiglia del guardiaboschi fu felice. Gerlaug puliva il fienile e le scuderie. Portava il bestiame a pascolare nella foresta, mantenendo le cavezze e le selle riparate. Era capace di produrre selle da sola. Tutti i grandi cavalieri andavano da lei per farsi fare una sella. E presto divenne famosa nel paese. Un giorno, mentre il principe Gretari stava cavalcando nella foresta, Gerlaug stava pascolando gli animali. Ah, la sella del cavallo si è allentata. Posso aiutarti, principe? Bene, sembra che la sella si sia rotta. Se vieni dove lavoro, potrei farti una nuova sella. Veramente? Sei la famosa sellaia del nostro regno? Non so se sono famosa, principe, ma so come fare le selle. Gretari non aveva alcun ricordo di Gerlaug e andò con lei a casa del guardiaboschi, dove lei gli fece una nuova sella in pochissimo tempo. Ecco la tua sella, principe. Grazie! È perfetta! Quanto ti devo pagare? Bene, se devi pagarmi, promettimi che quando ti fidanzerai sarò invitata al tuo fidanzamento e mi verrà assegnato un posto proprio accanto a te al banchetto. Bene, questa è una richiesta piuttosto strana, ma ti prometto che il tuo desiderio sarà esaudito. Pensi che un principe debba sposare una principessa? Bene, questa è l'usanza. In effetti, domani andrò nel nostro regno vicino per trovare una sposa tra le 7 principesse. Grazie per la sella. Quindi, il giorno dopo, Gretari andò in un regno vicino. E come era usanza, scelse una sposa, la più bella di tutte. Il matrimonio doveva essere celebrato a Goland. La principessa, scelta da Gretari, era piuttosto cattiva e presto lui si rese conto che non gli piaceva affatto. Ti aspetti che salga su questa barca? È così brutta! Questa non è una barca, questa è una nave. E quanto più bella vuoi che sia? Se avessi saputo che hai dei gusti così, non avrei mai accettato di sposarti. Forza, partiamo! Il principe e la principessa raggiunsero Goland, ma l'umore della principessa non migliorò affatto. Hai un palazzo così piccolo? Ha 1000 stanze. Quante ne vuoi di più? È brutto e piccolo. Bah. Presto arrivò il giorno del fidanzamento. Fedele alla sua promessa, Gretari invitò Gerlaug e la fece sedere proprio accanto a lui al banchetto. Alla principessa questo non piacque. Chi è questa donna seduta al nostro tavolo? È la famosa sellaia di Goland. Che cosa? Hai fatto sedere una sellaia al nostro tavolo? Comportati bene. Come osi? Sembra che stia causando del malumore. Forse dovrei andarmene. No, te l'ho promesso. Accetta questo dono, principe. Indossalo al collo e considererò la tua promessa mantenuta. Certamente. Non dovrai mai perdere questo pendente. Se lo farai, ti dimenticherai di me fino a quando la tua futura sposa lo getterà via. Perché indossi un pendente così brutto? Thank you. Gerlaug, sei tu! Ti ricordi finalmente? Sì, sì, mi dispiace tanto. Non ho seguito le tue indicazioni. Cosa ho fatto? Cosa sta succedendo? Innanzitutto inviti questa brutta donna al nostro fidanzamento e la fai sedere al nostro tavolo e poi indossi quel brutto ciondolo. Che insulto! Bene, mia cara, se ti consideri così insultata in questo brutto regno e in questo brutto palazzo, forse vuoi riconsiderare il tuo fidanzamento con mio figlio? Ah, sì! Voglio tornare da mio padre in questo momento e annullare il fidanzamento. Sono sicuro che a mio figlio si spezzerà il cuore, ma mi occuperò di rimandarti nel regno di tuo padre direttamente con la nostra brutta nave. Bene, cielo mio, non mancherà nessuno. Chi è questa affascinante fanciulla? L'amore della mia vita, madre. La donna che mi ha riportato vivo da te. E il principe raccontò ai suoi genitori tutto sulla sua vita in montagna. Ma io non sono una principessa, altezza. Che dice che un principe deve sposare solo una principessa? Le persone devono sposarsi solo per amore e vedo che vi amate profondamente. Quindi il re di Goland invitò il re delle montagne e il suo comandante in capo e il matrimonio di Gerlaug e Gretari fu celebrato con grande sfarzo e splendore. Non si separarono mai più e Gerlaug e Gretari vissero felici e contenti.